Italia in controluce, la politica nel tunnel. Non farò governi che abbiano davanti a sé l'impossibilità di cambiamento, non li farò. Sono 20 anni che noi sentiamo queste parole e noi non incontriamo le parti sociali, perché noi siamo quelle parti sociali, quei cittadini, quei lavoratori, quei cassa integrati, quei studenti fuori sede, quei disoccupati che vivono tutti i giorni la realtà di questo paese. Sono due mondi veramente inconcilianti, la parola di Bersani, la parola di Roberta Lombardi. Dunque il no di Grillo a Bersani, alla fine, come ampiamente previsto, è arrivato il no del Movimento 5 Stelle ad un governo guida Bersani. A Roberta Lombardi e Vito Crimi, il leader del PD ha proposto un governo di cambiamento che possa partire anche da alcuni punti comuni dei programmi del PD e del 5 Stelle, ma il capogruppo di Camera e Senato del 5 Stelle hanno dichiarato di volersi prendere il paese perché, come avete sentito dalla Lombardi, è da almeno 20 anni che sentono le stesse cose dai politici. Ma Beppe Grillo teme che il no ad un accordo con il PD possa provocare anche delle fratture enormi nel suo movimento. Non si escludono infatti colpi di scena, come già avvenuto il giorno della votazione per Piero Grasso alla guida del Senato. Con la defezione si parla di almeno una ventina di senatori che potrebbero risultare anche determinanti per la nascita di un esecutivo a guida Bersani. 349-238-6666, secondo voi ha fatto bene Grillo a dire no al governo Bersani? Ora Bersani deve chiedere a Napolitano di andare a prendersi la fiducia in Parlamento, oppure deve andare a casa, cioè deve lasciare il passo a qualcun altro, e quindi con la decisione da parte di Napolitano. 349-238-6666, subito con Alessandra Schepisi, che ha seguito per Radio 24 tutta la mattina questo incontro, che per la prima volta un incontro politico così da consultazioni avviene in linea diretta, cioè in streaming. Sì, Daniele, buongiorno. Innanzitutto diamo una notizia: c'è un post proprio pubblicato proprio adesso sul blog di Beppe Grillo in cui il comico genovese risponde in maniera molto dura agli appelli che arrivano in queste ore al movimento ad avere responsabilità in nome della governabilità. Dice: i Bersani, D'Alema e Berlusconi, Cicchito e Monti ci prendono allegramente per il culo ogni giorno con i loro appelli, hanno governato a turno per 20 anni, hanno curato i loro interessi, smembrato il tessuto industriale, tagliato lo Stato sociale, sono 20 anni che appunto ci prendono in giro e non hanno ancora il pudore di togliersi di torno. L'espressione è sicuramente comunque più colorita. Tornando alle consultazioni, come abbiamo sentito, è un secco no su tutti i fronti, il movimento non arretra di un millimetro, non ci sarà nessuna fiducia al governo Bersani né alla Camera né al Senato e nemmeno un sostegno indiretto con una eventuale uscita dall'aula. Questo è stato il risultato di questa consultazione, nessuna sorpresa in realtà da questo incontro, ciascuno ha tenuto il punto, le distanze sono rimaste tali. Bersani aveva invitato ad un'assunzione di responsabilità, ad un governo di cambiamento, ha detto: voi non siete gli unici depositari di questo cambiamento, non impedite la nascita di un governo. Poi aveva messo sul piatto tutta una serie di punti che stanno a cuore ai grillini, dalla legge che riduce il finanziamento pubblico ai partiti, alle norme sulla corruzione, alle norme antimafia, ma non è riuscito a fare breccia nel muro di gomma dei grillini. E gelida è stata la prima risposta di Roberta Lombardi, che ha detto: mi sembra di stare ad una puntata di Ballarò, sono 20 anni che sentiamo dire le stesse cose. Poi Crimi invece, il capogruppo Senato, ha spiegato in maniera più articolata il no del movimento, ha detto: non possiamo, non ce la sentiamo di dare una fiducia in bianco, potremmo appoggiare singoli provvedimenti, ma l'ideale è un governo a 5 stelle. E poi ha detto anche che non ci sarà un altro caso Grasso, che la decisione sarà unanime, quindi ha risposto a Bersani che aveva detto: la fiducia si dà e si toglie, c'è un modo di non darla consentendo, e ha detto: non ci sarà nessuna uscita dell'aula. Insomma, su questo è stato chiaro, però poi bisognerà vedere, perché sappiamo che ci sono tensioni, ci sono distinguo, malumori, mal di pancia all'interno del Movimento 5 Stelle, e tra l'altro Grillo subito dopo Pasqua dovrebbe riunire tutti i parlamentari, è la seconda volta che succede dopo le elezioni, per serrare le fila e per in vista di questo no a a Bersani, ma come ho detto ci potrebbero anche essere delle sorprese, Daniele. Grazie ad Alessandra Schepisi, intanto sono già arrivati i primi sms, 349-238-6666, c'è chi dice Bersani per avere una minima speranza prima di sedersi avrebbe dovuto rinunciare per via scritta ai rimborsi elettorali, i grillini credono di avere ragione ma le prossime elezioni se ne accorgeranno, assicura Roberto. E ancora c'è chi dice ha fatto benissimo, no e poi no, basta con questa gentaglia, dice tal Giovanni, credo da Pesaro. Movimento 5 Stelle, soggetti passivi, perché i no, secondo Andrea da Bologna, andrebbero contestualizzati. Bersani patetico ha fallito, prende lui le sue responsabilità, si deve dimettere, dice Alessandro da Arezzo. Queste sono le prime vostre opinioni che sono arrivate a 349-238-6666. Allora vediamo subito una delle domande che ci poniamo tutti: se ora Bersani deve chiedere a Napolitano di andare in Parlamento a prendersi la fiducia, e cosa sta succedendo, Miglietta? Sì, buongiorno ai nostri ascoltatori. Sono ore queste, dunque, dopo l'incontro di Bersani con il Movimento 5 Stelle, di consultazioni all'interno del Partito Democratico. È stato comunque uno spartiacque l'evento di questa mattina. Se quindi Bersani ha il dovere di andare fino in fondo, concludere le consultazioni e andare quindi venerdì a questo punto al Quirinale, o se gettare prima la spugna, o terza ipotesi, se riaprire il fronte dei contatti con il Popolo della Libertà, che sappiamo in queste ore sta attendendo una risposta da Bersani. Eppure quest'ultimo questa mattina ci ha provato con i rappresentanti di Grillo, soprattutto laddove ha proposto una cosiddetta convenzione, un nuovo organismo parlamentare di servizio civico, dove rappresentare non solo deputati e senatori ma anche tutte le realtà della cosiddetta società civile, per riscrivere insieme al Movimento 5 Stelle e non solo la seconda parte della Costituzione. Bersani pensava che questo potesse essere un punto fondamentale per scardinare il no del Movimento 5 Stelle. Ecco, Miglietta, abbiamo veramente pochi secondi, devo passare la linea ad Elisabetta Fiorito, che invece segue per noi la parte del Popolo e Libertà, perché c'è sul nodo il Quirinale e c'è sul nodo anche la Commissione per le Riforme. Ma più che altro il nodo per il Quirinale, Daniele, perché è chiaro che Berlusconi vuole un moderato al Quirinale. Sulle riforme è già stato il capo dello Stato Giorgio Napolitano a dire al PD comunque che deve aprire, deve fare le riforme insieme con il PDL per evitare le riforme a colpi di maggioranza che poi vengono annullate dai referendum confermativi, come è successo nelle scorse stagioni. Comunque il PDL continua a ribadire che Bersani deve smetterla di farsi umiliare dal Movimento 5 Stelle e deve pensare al bene del paese, ovvero fare un governo insieme al PDL, e poi si aprirà la partita del Quirinale. Bene, grazie naturalmente tutto il pomeriggio, così come tutti i giorni vi daremo informazione. Vi ricordo che Italia in Controluce va in onda tutti i giorni a quest'ora alle 13.30, è un programma condotto e coordinato da Daniele Biacchesi con la redazione di Radio 24, ha una pagina Facebook, è un gruppo di Facebook, una pagina di Twitter, e poi alcune delle trasmissioni le potete risentire e ascoltare su radio24.it, la nostra email controluce@radio24.it.